Ben ritrovati per una nuova puntata di Coccoli al Silicio. Oggi ho la voce anche un po' tremolante per la fatica di questi giorni. Sono stati 2 giorni abbastanza pieni con Brugole e Merletti in quel del Next Emerson di Firenze, un evento che a tutti, diciamo, con tutte le ragioni, si può definire un warm-up molto impegnativo di Hack Meeting, che sarà l'incontro che si terrà il 30-31 maggio, 1-2 giugno, in quel di Firenze, sempre al Next Emerson. Ho deciso comunque di fare la puntata, visto che era un po' di settimane che non trasmettevo, non sto in formissima, ma mi impegnerò a cercare di dire delle cose interessanti anche questa sera. E in verità ci sono parecchie notiziole, ecco, uscite in questi giorni. La prima su cui vorrei puntare l'attenzione di voi e di voi ascoltatrici e voi ascoltatori è quella che riguarda un tot di grosse compagnie che pare verranno in qualche modo co coinvolte per il loro modo di agire in alcune sanzioni o indagini, richieste di chiarimenti rispetto al loro diciamo, trattamento delle grosse mole di dati di cui sono in possesso. E partiamo subito con Google, quella che per ora non rischia multe, ma in qualche modo è stata tirata in mezzo. Era una cosa di cui avevo parlato anche nella scorsa puntata, che forse mi sono dimenticato poi di mettere sul blog, anche se ho caricato diligentemente sul nostro archivio, ma poi mi è passato di mente di metterla sul blog. Quindi questa sera magari vi carico entrambi i podcast, quello di questa sera e quello di un paio di settimane fa. Ebbene, avevo parlato di questo database che Google tiene, chiamato SensorVault, che è sostanzialmente un database che è venuto agli onori delle cronache perché è utilizzato dalla polizia statunitense per identificare i cellulari presenti in zone in cui erano stati commessi dei reati. È una roba di cui Google non aveva finora reso conto a nessuno, ma che era però a disposizione in qualche modo delle forze dell'ordine previa richiesta. Ebbene, questo database ora diciamo il protagonista di un'interrogazione che è stata fatta vediamo un po' se riesco a capirlo qui, ci si parla di una lettera aperta che viene da alcuni avvocati o comunque alcuni giuristi in forza a questa US House Energy and Commerce Committee, che è nel vasto panorama delle organizzazioni governative statunitensi. Non so bene che ruolo quel ruolo abbia. Ebbene, però, questa commissione ha rivolto 10 domande a Google per chiedergli appunto quali dati siano presenti, quali informazioni siano presenti in questo database, in che modo quelle che potremmo chiamare di fatto le società di copertura di Google, in particolare Alphabet, cioè utilizzi questo database, se questo database, oltre alle forze dell'ordine, sia anche in utilizzo di terze parti, cioè insomma se Google rivenda i dati di questo database a qualcuno, in qualche modo li dia a qualcuno. È interessante questa, secondo me, questa notizia, perché rappresenta un po' quello che per me è uno strano paradosso, questa specie di Giano bifronte, che da una parte ci sono strutture governative che sono ben contente che Google abbia questi dati, ce ne sono un'altra parte che si interrogano su come li utilizzi. Diciamo che è abbastanza atipico il fatto che comunque Non si metta in discussione che questi dati esistano e debbano servire a quello che, diciamo, a quelle che sono le forze di polizia, ma si mette in discussione il fatto che Google comunque li possa in qualche modo rivendere, un po' come se si volesse ribadire che quei dati appartengono soltanto all'utilizzo, dovrebbero appartenere, cioè non si mette in discussione che l'azienda li debba avere, ma che li debba fornire, almeno così mi sembra di leggere tra le righe, soltanto a richieste in qualche modo istituzionali. Vedremo come Google risponderà a questa lettera aperta. Appunto, a me mi poneva, cioè mi premeva mettere in sottolineare come questa, diciamo, appunto, come questa sia una sorta di contraddizione, no? Di questo meccanismo che ha visto il web crescere attorno ad alcuni grandi colossi che evidentemente hanno fatto poi anche una scienza e una hanno messo a profitto, diciamo, questa grossa quantità di dati che possiedono, e su questo fanno il loro business. E il fatto che questa roba necessariamente ha poi un impatto, no? Cioè che in qualche modo sarebbe strano che un'azienda che nasce appunto come azienda debba tenere tutti questi dati, quindi spendendo anche un sacco di soldi per conservarli, semplicemente per farli poi utilizzare alle forze di polizia quando hanno bisogno, dato sì che appunto essa è azienda privata e come tale avrà in mente il proprio profitto, no? Quindi se non si mette in discussione questo meccanismo è abbastanza, insomma, velleitario poi chiedergli o che renda conto di come utilizza questi dati. Mi sembra abbastanza utopico il fatto che loro conservino tutta questa roba semplicemente per l'utilizzo delle forze dell'ordine, dal momento che appunto non penso che nessun governo mondiale sia disposto a dare a Google tutti i soldi che loro fanno dall'utilizzo commerciale di questi dati. E quindi, insomma, ci si pone davanti a una scelta che sarebbe razionalità, ma nel nostro mondo non si può parlare in questo senso di una razionalità normale. Bisogna sempre tenere conto di come funziona il nostro buffo capitalismo tecnologico, e quindi sarebbe quantomeno impossibile dirgli, secondo me, tieni tutti i dati, dalli solo a noi, però ti diranno: vabbè, ma quanti soldi mi dai te? Cioè, se me ne dai abbastanza è ok, ma se non me ne dai abbastanza, io questi dati non per quale motivo li dovrei conservare? E in questo ci si pone in un netto impasse, anche considerato che appunto, cioè, Google ha un attivo di un sacco di soldi, la maggior parte dei governi hanno soltanto debiti e quindi niente, a me questa cosa mi reca del buon umore, e nello stesso tempo mi inquieta. Buon umore relativo, perché appunto la stanchezza che ho addosso mi consente di ridere fino a un certo punto, e dopo subentra la stanchezza, non rido più. Un'altra notizia che ho in cantiere riguarda invece un altro grosso big del web, Facebook, che pare sia finito in mezzo a diverse indagini, una che forse arriverà anche a richiedere un indennizzo, una multa, diciamo, si concretizzerà in una multa di, cavolo, un sacco di soldi, qua si parla di 5 miliardi, 5 miliardi di dollari se non interpreto male l'articolo che sto leggendo, mi sembrano veramente tanti, siamo sicuri. Vabbè, forse lo leggo male io, comunque insomma incapperai in una grossa multa. Ebbene, questa è una notizia però di qualche settimana fa, la multa sarebbe legata appunto all'utilizzo, al non rispetto della privacy, all'incapacità di Facebook, un po' voluta e un po' no, insomma, di gestire tutta questa grossa mole di dati. Diciamo, l'ente che si è posto a ad accusare Facebook, di questa cosa e poi anche a pronosticare, cioè a paventare questa multa, che non ho ben capito se poi esisterà veramente, cioè avverrà veramente o no, nel senso che può anche darsi che poi si traduca tutto in una roba e ci si mette d'accordo e finisce a tarallucci e a vino, e la Federal Trade Commission, un altro ente governativo americano, e insomma, sono tanti soldi che Facebook si troverà a sganciare, o che insomma non si tratta proprio di bruscolini. È interessante comunque il fatto che probabilmente questa cosa di multare i grossi colossi che guadagnano tantissimi soldi e altrettanti probabilmente ne restituiscono di tasse, ma non abbastanza proporzionati rispetto ai grossi guadagni che fanno, si traduca poi nel fatto che i governi si mettono in fila ormai a questo punto per cercare di multarli in base alle proprie leggi, a multare il grosso social network, in qualche modo penso anche per fare cassa, cioè per mettere le cose in pari, cioè guadagni tanto, dammi tanto, se non me li dai in tasse te li farò cacciare con le multe. È un altro questo buffo paradosso. Comunque, oltre a questa Federal Trade Commission, si sono aggiunti anche alcuni governi e alcuni stati singoli. Lo stato di New York pare abbia aperto un'indagine legata a alcune, diciamo, alcune cose che erano uscite nei mesi scorsi, che ora io non ho voglia di ridettagliare, anche perché sono appunto, dovrei risalire, cioè sto a parlare mezz'ora se vi racconto tutto quanto. Vi elenco semplicemente chi in qualche modo ha messo sotto indagine Facebook, cioè si parla appunto dello Stato di New York, ma poi anche di alcuni governi, l'Irlanda ad esempio, ha deciso di aprire un'indagine legata a alcuni branch di password avvenuti nei mesi, cioè negli anni scorsi, sempre relativa alle vicende diciamo, di questi mesi di Facebook, di cui hanno parlato un po' tutti i giornali. Forse la più nota era quella legata a Cambridge Analytica, e proprio su questa il Canada ha deciso anche lui di perseguire, secondo le proprie leggi, Facebook, e quindi adesso si trova stretto sotto assedio da parte di più governi. Sarà interessante vedere come reagirà e come finirà questa storia. Ecco, appunto, ribadisco la mia impressione è che sia semplicemente un modo, in qualche modo, per in qualche modo costringere Facebook a dividere i propri profitti con dei governi evidentemente anche bisognosi di denaro. Non fa mai male, insomma. E boh, vi lascio un po' di musichina. Se volete, probabilmente queste notizie le trovate anche sui quotidiani. Io non ho controllato se in Italia la cosa è uscita, ma mi sembra strano non lo sia, visto che le altre vicende di Facebook erano tutte abbastanza pubblicizzate dai giornali, quindi non vado oltre, volevo solo porre la vostra attenzione magari su queste tematiche, in modo che poi autonomamente, magari se vi interessano, ve le potete andare a ricercare. Visto che di social network abbiamo parlato, no? E volevo porre la vostra attenzione su una cosa tecnicamente buffa e interessante. C'è un plugin molto utilizzato che si chiama Social Share, essenzialmente per pubblicare, penso, in automatico. Io non l'ho mai usato questo coso perché sono molto poco social. Comunque si tratterà, penso, di un plugin per pubblicare in automatico post da un blog WordPress. Si tratta di un plugin di WordPress, i maggiori social network, e quindi voi pubblicate su WordPress e i vostri articoli vengono in automatico pubblicati anche su profili e account Twitter, Facebook, Instagram e bla bla bla. Ebbene, esso pare essere stato, anzi, è sicuramente stato affetto nelle sue versioni passate, ma non troppo, cioè tutte roba recente. Sono state, appunto, stato affetto da una remote code execution, che è una cosa normalmente considerata molto brutta brutta, cioè una roba a codice rosso, nelle classifiche degli attacchi webosi. Ebbene, è subito nel giorno in cui proprio patchavano questo remote code execution, che sostanzialmente significa che te puoi eseguire codice PHP sulla macchina che fa girare questo WordPress con questo plugin, che è una cosa brutta brutta. Nello stesso giorno usciva un'altra roba abbastanza brutta, anche questo codice rosso, un cross-site scripting stored, cioè una di quelle cose che rimangono nel database, dei cross-site scripting che rimangono fissi nel DB, sempre a causa di questo, a causa di questo plugin. E quindi sostanzialmente questo mondo social è affruttato al plugin Social Warfare, Pen un RCE e un cross-site scripting stored, che sono due attacchi notevoli. Nulla, vi volevo un po' rendere conto anche di questa cosa, non tanto perché corriate ad aggiornare i vostri plugin, a me non me ne frega niente, ma per dirvi quanto è bello questo mondo così sociale, anche in qualche modo quanto è vulnerabile. E tant'è, un altro po' di musichina e poi andiamo avanti con le notiziole. Thank you. babe, for you to let me out that door. I said, what's it gonna take now, baby, for you to let me out that door? Well, I can't hear a word you're saying, darling, 'cause your big mouth is in the way. Dato che si parlava di attacchi informatici, voglio rendere dotti di questa cosa che a me è interessato, penso che me lo andrò a guardare con piacere, il fatto che, oh guarda, i maledetti SMS arrivano in radio e fanno delle strane ronze, Vabbè, voglio dire, potevo spegnere il cellulare effettivamente, sì, o mettere... Sì, avrei potuto farlo. Ora lo farò, vi spengo il cellulare così non vi do più noia, ecco. Allora, vi dicevo che questo bug, e di nuovo sono io che spengo il cellulare, funzionano così questi oggetti. Allora, questo malware di cui vi volevo rendere dotti, essenzialmente perché abbiamo seguito spesso in questa trasmissione abbiamo seguito qualche volta le vicende dei cosiddetti malware, quelli legati a rubare i soldi sostanzialmente dalle strutture bancarie o simili, dalle strutture bancarie quelle patinate, cioè quelle da cui si fanno i veri soldi. Ebbene, c'è un coso che ha fatto abbastanza scalpore, un coso nel senso di uno di questi malware super forti che sono in grado di portare alcuni attacchi anche non banali, un po' sofisticati a quella branca del pagamento online, che è poi quello che ormai gestisce la maggior parte delle nostre transazioni, visto che si parlava non solo di il classico sito in cui tu metti la carta di credito, ma si parlava anche di sistemi di ATM e sistemi di pagamento, anche quello che fate nei negozi. E quindi era una cosa abbastanza impattante, proprio perché questo malware, conosciuto come Carbanac, così è stato ribattezzato dagli specialisti, ebbene questo malware andava direttamente a colpire le strutture bancarie, e come? Ma nella maniera forse più semplice, che è quella di fare del phishing, cioè delle mail farlocche, delle mail truffaldine, mirate però agli impiegati delle banche. In questo modo sostanzialmente, se il virus, il malware riusciva ad eseguire, a essere eseguito, andava ad impattare direttamente sulla struttura interna della banca. Quindi non si attaccava il singolo utente in quanto utente, come fanno altri oggetti di questo tipo, ma si va invece alla fonte della struttura. Bene, è interessante il fatto che i ricercatori di FireEye hanno ritrovato in un sito che offre un servizio pubblico, cioè VirusTotal, hanno ritrovato due archivi RAR che contengono il codice e un sacco di altra roba relativa a questo Carbanac, che è appunto era stato un po' la spina nel fianco di diverse banche, un centinaio più sparpagliate per il mondo. E appunto pare che nel 2000, parecchi anni fa addirittura, cioè pare che insomma, che questi due RAR fossero lì da un po' di tempo e sono stati ora identificati da chi spazzola VirusTotal con l'occhio clinico sostanzialmente. E dentro ci abbiano un sacco di cose, essendo su un sito che è pubblico. Se riuscite ad avere un account di quelli da ricercatore per VirusTotal, probabilmente ve li potrete anche scaricare. Io penso che ci proverò e magari ve ne parlerò meglio in qualche altra puntata, oppure addirittura potrebbe diventare, ora mi è venuta l'idea ora, un interessante quantomeno 10 minutes per Hack Meeting di quest'anno. Ecco, vedi, così ho anche trovato qualcosa da fare e che bello. E con questo vi lascio un altro po' di musica e poi volevo dare appunto un po' di notiziole relative a quel dell'Hack Meeting, visto che si terrà qua in quel di Firenze e anch'io contribuisco in parte all'organizzazione di codesto evento, quindi volevo raccontarvi un pochino quello che sta arrivando nella lista Hack Meeting in termini di contenuti e simili, insomma, quello che so che ci sarà ad Hack Meeting, così per farvi venire un po' di bava alla bocca e voglia di venire in quel di Firenze il 30, 31 maggio, 1-2 giugno. Parliamo dunque di questo Hack Meeting. Quello che vi volevo un po' raccontare e quello che si deduce leggendo un po' la lista Hack Meeting, è una lista pubblica, ve la potete anche andare a vedere. Allora, siccome si è avuto occasione di discutere anche un po' diciamo con un po' di persone di quel giro di Hack Meeting che sono venute appunto al warm-up di Brugole e Merletti, vi volevo dare qualche anticipazione di ciò che si sta preparando con alcuni seminari. Vado assolutamente a memoria, cioè non ho il fogliettino scritto, vi dico quello che ricordo di cui ho sentito parlare in questi giorni. Diciamo che alla Call for Paper, c'è cioè la richiesta di seminari che è stata mandata qualche settimana fa nella lista di preparazione di Hack Meeting, hanno risposto in un po'. Per ora le cose che si delineano sono una piuttosto interessante su diciamo, gli sviluppi e l'evoluzione di quello che viene chiamato il software open source, copyleft, le licenze, eccetera. È tutto letto secondo una lettura critica, cioè dove ci ha portato questo movimento che era partito come un quasi una rivendicazione sulla libertà del codice, ancora in parte lo è così, quindi in qualche modo sulla socializzazione degli strumenti tecnici a livello proprio di codice, dove siamo arrivati ora, cioè quanto si è realizzato delle promesse, quanto è stato invece incamerato, ridigerito, riassorbito dal mondo grosso diciamo, delle grosse compagnie che dominano sull'internet, sulla scena informatica. È un dibattito abbastanza interessante che appunto avverrà in quei giorni, probabilmente sarà messo, credo, il sabato pomeriggio. Quindi il primo giugno, credo, e altre cose interessanti che si sono delineate. Pare che si andrà a svolgere quest'anno un percorso anche base di avvicinamento ad alcune tematiche, alcune anche avanzate, cioè un approccio base a tematiche avanzate è una cosa un po' particolare. Ci saranno chiaramente i grossi must soliti, che sono l'autodifesa, cioè quelli relativi all'autodifesa digitale, per cui anche chi si affaccia a questo mondo solo nell'ottica di conoscere un po' meglio come fare a tutelare la propria riservatezza in questo mondo di persone che accaparrano i tuoi dati, troverà dei seminari a riguardo, o almeno due, probabilmente entrambi il sabato, appunto per favorire la partecipazione anche dei non addetti ai lavori. E oltre a questo, però, si stava cercando anche di delineare un percorso che trattasse argomenti altri. In particolare uno un po' nell'ottica di quello che è il tema di quest'anno di ACMeeting, cioè l'autogestione, cioè quegli strumenti che ci permetterebbero, se ben utilizzati, di gestire cose che normalmente noi deleghiamo a grosse strutture, per esempio la posta elettronica o, che ne so, i sistemi di instant messaging o cose simili. Tutte strutture, che poi hanno come appunto prezzo quello di avere tantissimi dati nostri. Bene, però, per come è strutturato internet, per come è fatto, non c'è veramente un motivo se non quello tecnico e di comodità per cui qualcuno debba gestire la tua posta. Tu potresti benissimo gestire la tua posta da solo, no? E ci sono un po' di strutture, c'è stato sviluppato del software per fare, diciamo, in casa. Quasi a livello di server casalingo, una cosa di questo tipo, o anche come fanno alcuni servizi tipo Autistici o Rise Up o Indivia o insomma alcuni di questi cosiddetti server autogestiti, ce ne sono anche altri, ecco, quello di costruire da soli una propria struttura anche un pochino più grande per gestire magari anche, non lo so, la vostra mail e la vostra casella di posta e quella dei vostri amici. Ecco, spesso c'è un gap tecnico da colmare che però non è neanche così impossibile. D'altra parte non saprei che altra visione dare del web, se non quella volendola liberare da queste mega strutture tipo appunto Google, Facebook, quelle di cui abbiamo parlato prima, che se mangiano tutto, io non saprei come altro fare se non quello di dire: ok, va bene, se abbiamo bisogno di questi strumenti, impariamo a farceli da soli, ma non solo, diciamo, noi elementi forse più politicizzati che credono in questo modo dell'autogestione, ma è una roba, che tendenzialmente non è così strana per tante altre strutture, anche per, non lo so, l'associazionismo di base o cose di questo tipo. Ecco, sarebbe in qualche modo un internet che va in un'altra direzione. Ecco, per favorire quantomeno quest'ottica, almeno a livello di suggestione, ma non solo, ma anche per dare degli strumenti tecnici a chi si voglia avvicinare a farlo, si sta provando ad allestire un percorso di base che parte appunto dai server casalinghi e poi evolva magari in strutture un poco più complesse, dove si affrontano appunto i temi, magari dei, non lo so, della cosiddetta resilienza o ridondanza, cioè come facciamo a federarci in questi servizi per costruire un servizio sempre un poco più grosso. L'ottica in realtà non è particolarmente nuova, anzi è antica, nel senso che all'inizio, quando prima che venisse internet, i servizi di posta erano fatti essenzialmente con dei network di strutture tutte casalinghe quasi, che erano le BBS, però nonostante questo erano strutture che avevano una diffusione in alcune reti europee, cioè Fidonet aveva una rete molto grossa. E quindi niente, si tratta magari di riattualizzare questo discorso, posto appunto chiaramente che è un discorso su cui ci sono dei pro e dei contro, però rispetto ai contro che ci sono gestendo le cose così come sta avvenendo ora, io vedo molti più pro che contro. E quindi niente, per favorire questo tipo di suggestioni, questo tipo di critica anche boh, in qualche modo radicale alla struttura attuale della rete di internet, avremmo pensato a alcuni seminari, cioè ho visto, insomma, sono state proposte un po' di queste cose, quindi almeno un paio di seminari saranno dedicati appunto all'installazione e i trucchi. Per tips and tricks, diciamo, per creare delle strutture, magari per non dover reinventare sempre la ruota quando c'è qualcuno che ha studiato già queste cose e magari le ha già messe in pratica e apprendere un po' tutti quanti. A ogni livello, nel senso che si stava appunto studiando un metodo per cui ci fossero cose anche molto comprensibili a un semineofita, non del tutto, ma comunque a una persona che magari non si è mai approcciata a questi discorsi dal punto di vista sistemistico, ma anche cose che potessero interessare invece chi magari ha più esperienza, ma è interessato a sentire, a conoscere anche le esperienze di altri e i problemi che come hanno risolto, i problemi che hanno avuto e come li hanno risolti. Un'altra cosa che riguarderà appunto questo discorso sui percorsi base ma avanzati saranno delle cose più di stampo strettamente riferibili a quello che è il mondo dell'hacking, come ve lo immaginate, cioè quello che riguarda, che ne so, l'hacking degli applicativi web. Ci sarà probabilmente un seminario introduttivo che quantomeno tenta di dare una panoramica di quelli che sono le tipologie di attacchi di cui si sente qualche volta parlare ormai anche sui giornali per capire un po' di che cavolo si sta parlando, anche tecnicamente con qualche esempietto. E poi ce ne sarà un altro il reversing e l'analisi dei binari, che è una roba che per me, che vi parlo spesso di malware, è un argomento piuttosto attinente, cioè si tratta di pigliare un po' questi programmi e cercare di capire cosa fanno o cercare di capire di analizzare. Cercare di analizzarli, l'ottica che si terrà in questo seminario, che peraltro vi faccio io, quindi sarà quella, lo so come andrà, sarà appunto quella di partire dall'analisi dei binari in un'ottica appunto di analisi in qualche modo mirata ai malware, ecco, che sono un argomento che a me interessa abbastanza ed è anche forse quello dove l'analisi appunto di queste tecniche di analisi del software risultano più, almeno per me, più interessanti e con più senso. Poi uno lo può fare per tante cose, diciamo, tutto questo è nato sostanzialmente, boh, inizialmente la grossa scena del reverser era più sulla questione di rompere le protezioni dei giochi o dei programmi proprietari, ecco, e si è partiti da lì. Però, insomma, io mi penso che focalizzerò la cosa, anche avendo solo 2 ore, su un altro ambito, perché appunto dovendo affrontare 1.000 argomenti, poi rischio di non dire assolutamente niente e confondere solo le idee. È stato proposto anche proprio oggi, un seminarietto sui buffer overflow, che sono comunque una categoria di attacchi un po' vetusta, ma di cui in qualche modo le basi teoriche dietro che ci stanno sono sempre, sempre valide. Anche questo sarà approccio abbastanza base ma avanzato. E quindi niente, si delinea comunque un percorso di diciamo di base, ma non solo, secondo me è piuttosto interessante e importante che ci sia, credo, almeno io ci tengo, che mi è sempre piaciuto gli anni in cui c'era, perché appunto favorisce un po', quella dimensione di scambio, no? Di persone che magari hanno approfondito, più di te certi argomenti e, in qualche modo tentano di indirizzarti, di favorire diciamo, l'ingresso all'interno di queste cose che altrimenti risultano molto ostiche, perché è vero che su internet c'è praticamente tutto, ci sono mille libri, un sacco di cose, e in questo tutto spesso ci si perde, qualche volta invece è necessario più un approccio ragionato di qualcuno che ti guida, poi tu svilupperai il tuo approccio, il tuo stile, eccetera. Qualche volta aiuta un sacco avere qualcuno che ti dice quali sono per lui le basi e come lui ha capito le cose. E con queste piccole anticipazioni chiudo qua. Penso che nelle prossime settimane continuerò a parlare di queste cose, anche perché ne ho saltate diverse, che però volutamente per tenermi appunto l'argomento anche per le prossime settimane e non parlare 12 ore, che mi sa che sto andando un pochino lungo. Vi lascio quindi a un po' di musica, poi vi do un po' di appuntamenti con qualche prossimo warm-up di ACT Meeting già fissato in quel di Firenze, e poi per oggi la chiudo qui. Ah, nel chiuderla qui, in realtà l'ho proprio chiusa, nel senso che ho stoppato brutalmente la musica. A questo punto, senza stare a ricercare il brano musicale che stavo mettendo, che ho malauguratamente chiuso, questa è tutta la stanchezza oggi. Sarà così, tanto per fortuna sono arrivato alla fine della trasmissione. Vi do sti appuntamenti, in realtà faccio che ve ne do solo uno, che poi tanto sono stanco e sicuramente le altre date le sbaglio di brutto. L'unico che ricordo molto bene, anche perché appunto me lo sono accollato personalmente io, almeno per metà, è quello al K100, al Camilo Sinfuego di Campi Bisenzio, che sarà domenica 5 maggio. Si apre con un aperitivo verso le 9:30 e poi ci sarà una presentazione degli aggiornamenti alla guida di autodifesa digitale, tradotta dal francese. È un lavoro di un collettivo francese, però molto interessante, che si sta traducendo da un annetto circa qua in Italia. Ci saranno degli aggiornamenti, perché appunto per non diciamo, lasciar passare troppo tempo tra l'inizio e la fine della traduzione, sostanzialmente questa guida è un work in progress, cioè ogni tanto ne escono dei capitoli, e quindi se venite potrete ascoltare la presentazione di quello che è il lavoro svolto finora nei suoi aggiornamenti. Penso che 2 anni fa si era già fatto un warm-up di ACT Meeting con una parte di questa guida, era proprio l'inizio della traduzione. È passato un anno e boh, facciamo un po' il punto su dove siamo arrivati. La parte invece che mi accollo io sarà sostanzialmente una sorta di live di coccoli al silicio, cioè seleziono quelle notizie che a me mi hanno più incuriosito, fatto ridere, così, e le racconto magari approfondendole dal vivo, vis-à-vis, sperando di fare cosa gradita e non noiosa. E quindi con questo chiudo. Questa volta non vi lascio neanche un po' la musichina, perché appunto l'ho malauguratamente stoppata e ora mi fa veramente troppa fatica cercare di riagguantarla, quindi al mio ciao stop, e voi dopo un pochino sentirete la bobina.